The topic of our discourse today is supramundane wisdom. L'argomento di questa sera è la saggezza sopramondana. We will start by looking, taking a closer look at the Buddha's mind just before the attainment of arahantship. Quindi iniziamo guardando alla mente del Buddha appena prima del suo ottenimento dello stato di Arhant. And the following are words of the Buddha himself. When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished. Quando, queste qua sono le parole del Buddha, dice, quando la mia mente era ampiamente purificata, luminosa e senza macchia, senza inquinanti. Mm-hmm. Rid of imperfection, malleable, wieldy. Era libera dalle imperfezioni, era malleabile. Wieldy. E wieldy. Wieldy is... duttile. Lavorabile, facile da controllare, no? Sono sinonimi, ok, quindi è un sinonimo di malleabile, lavorabile, duttile forse era giusto, sì. Steady. Stabile. And attained to imperturbability. E che aveva ottenuto l'imperturbabilità. Then the Buddha goes on to say, I directed it to knowledge of the destruction of the taints. E io l'ho diretta questa mente verso la conoscenza della distruzione delle contaminazioni. I directly knew as it actually is. L'ho conosciuta così come è davvero. This is suffering. Questa è la sofferenza. I directly knew as it actually is, this is the origin of suffering. E poi l'ho conosciuta direttamente così come è veramente, questa è la causa della sofferenza. I directly knew as it actually is, this is the cessation of suffering. E questa è la cessazione della sofferenza, io l'ho conosciuta direttamente così come è davvero. I directly knew as it actually is, this is the way leading to the cessation of suffering. E ho conosciuto direttamente così come è veramente il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. And reference here is certainly Beyabhirava Sutta of the Majjhima Nikaya, it's the fourth discourse. E qua la citazione viene dal quarto discorso del Majjhima Nikaya. Now, what we shall do next is to take a closer look at Satna, the cognitive process that Satna takes place when the mind moves from ordinary consciousness to supramundane consciousness. Poi adesso il passo successivo è andiamo a vedere il processo cognitivo che avviene quando la mente passa da una coscienza che è mondana a una coscienza che è sopramondana. In order to understand this cognitive process, a few technical terms need to be explained. Per riuscire a comprendere questo processo cognitivo dobbiamo prima spiegare alcuni termini tecnici. And one of them is bhavanga. Uno di questi è il bhavanga. And in English this is known as the stream of life continuum. Che viene tradotto come il flusso del continuum vitale. And it should be understood as a passive state of consciousness that is somewhat similar to consciousness in deep sleep. deve essere compreso come uno stato di coscienza passivo che in qualche modo somiglia alla coscienza che si trova nel sonno profondo. And so when active consciousness takes place, like active or involved in the seeing process, hearing process and so on, then there will be times in between where the mind is inactive. And that is during those moments in between, Balwanga consciousness will come in. Allora, poi ci sono i processi invece di coscienza attivi, quando ci sono i processi dei sensi come il vedere, l'udire, eccetera, e nell'intervallo tra queste coscienze attive, in questo intervallo c'è questo Balwanga, questo continuum vitale. Mm-hmm. And so these Balwanga jitas make sure that there will always be some kind of consciousness present. Quindi questo Balwanga citta rende possibile che ci sia sempre una coscienza presente. Mm-hmm. Now, that Balwanga citta then gets subdivided into Balwanga chalana, which is called in English vibratory Balwanga or vibratory life continuum consciousness. Allora, il Balwanga citta viene poi ulteriormente suddiviso in altre due tipologie. C'è il Balwanga chalana, che viene tradotto con il Balwanga vibrante. And that occurs when some object is impinging on this or that sense door, and then with that the Balwanga starts vibrating. Questo succede quando un oggetto dei sensi arriva a colpire la porta della mente, questo Balwanga inizia a vibrare. And then the next moment, the so-called Balwanga Upachida form of consciousness will occur, which is in English the arrest, Balwanga arrest consciousness. Il momento successivo c'è questo altro tipo di Balwanga che si chiama il Balwanga d'arresto, che è Balwanga Upachida. Yeah, that's great. And with that, those moments of Balwanga citta come to an end, and then what will follow next is some sort of an advertence consciousness. Quindi, so the mind adverting to this or that object, or this or that sense door, let's say. Quindi con questo Balwanga d'arresto il flusso del Balwanga si interrompe, dopodiché c'è una coscienza che si volta verso l'oggetto sensoriale, verso il senso che ha interrotto, che ha colpito la mente, ha interrotto il Balwanga. Mm-hmm. And that advertence consciousness could be directed towards a physical phenomenon, or one of the five sense, physical sense doors, or directed towards the mind door. Questa coscienza che si volta verso questo nuovo oggetto si può dirigere, si sta voltando o verso uno degli oggetti di cinque sensi fisici, ma anche verso un oggetto mentale. If it is certainly directed, or if it gets directed towards the eye door, then the seeing process will take place, the seeing consciousness will take place. Se viene diretta, si volta verso la porta dell'occhio, allora poi sorge una coscienza visiva. If the advertence goes towards the ear door, then the hearing consciousness will take place. Se si volta verso la porta dell'orecchio, avviene una coscienza uditiva. Now, the Abhidhamma describes the attainment of path knowledge and fruition knowledge as follows. So first we have a Bhavanga Citta, life continuing consciousness. Allora, l'Abhidhamma descrive in questo modo l'ottenimento della la conoscenza del sentiero e della fruizione. Allora, abbiamo prima questo Bhavanga Citta. Then, and this will be the first mind moment of the attainment series, cognitive series. So the first moment is the vibrational Bhavanga consciousness. Allora, qua si sta parlando di questa serie di istanti mentali che formano questo processo dell'ottenimento. Allora, il primo istante è questo Bhavanga che vibra, vibrante. Uh-huh. And that, as explained, will be followed by the arrest Bhavanga, also just one single moment. Che viene seguito dal Bhavanga d'arresto, che anche questo dura solo un singolo istante mentale. Then what comes next is, in the case of the path and fruition attainment, the advertence is not towards one of the five sense doors, physical sense doors, but rather to the mind. So we have mind advertence. Poi c'è la coscienza, quella che si volta, in questo caso, nel caso del sentiero e della fruizione, non si volta verso uno dei cinque sensi fisici, ma si volta verso la porta della mente. So, properly said, it's mind door adverting. Quindi, per dirlo propriamente, è una coscienza che si chiama la coscienza che si volta alla porta della mente. Yeah. And then, what follows is the so-called parikamma, which translates in English as preparation. So the mind gets prepared for what is about to happen. Poi c'è un altro istante, parikamma, che viene tradotto con preparazione, nel senso che la mente si prepara a quello che sta per avvenire. And then it is called parikamma because it prepares the mental continuum for the attainment to follow. Si chiama parikamma perché prepara il continuum mentale all'ottenimento che seguirà a breve. And the next mind moment is called access, upachara in Pali, because it arises in proximity to the attainment. E l'istante successivo si chiama upachara, che vuol dire di prossimità, perché sorge nelle vicinanze, in prossimità dell'ottenimento. Then what certainly follows is certainly the so-called conformity, in Pali known as anuloma. Poi l'istante successivo si chiama di conformità, in Pali anuloma. Mm-hmm. And there's only one single moment of that. E c'è un singolo istante di questo. And this conformity moment is certainly so called because it arises in conformity with both the preceding moments and the succeeding subsequent path or fruition. Si chiama di conformità perché sorge in accordo sia con tutti i momenti precedenti che con quello successivo del sentiero o della fruizione. And the next mind moment is that of change of lineage, in the Pali language given as Gotrabhu. Il momento successivo si chiama il cambio di lignaggio, in Pali è Gotrabhu. And the meaning that lies behind the name change of lineage is that a person is just about to make this transition from previously an ordinary worldling to a noble one. E si chiama cambio di lignaggio perché sta a indicare il momento in cui una persona sta per passare da una condizione di un essere comune, mondano, a un essere nobile. and or to phrase it slightly differently, because one is making the transition from the lineage of a worldling to the lineage of a noble one. O per metterla giù con altre parole, si sta passando da un lignaggio mondano al lignaggio dei nobili. And then what certainly follows is the path moment, noble path, knowledge or consciousness. Poi quello che segue è la coscienza e la conoscenza del nobile sentiero. And there are how many of those? 1, 2, 3, 4, 5, 10. What would you say? Quanti pensate che ce ne siano di questi? 4, 5, 10. Ah. No, Gianni signals one. And that is correct. So, just one single path moment. C'è un singolo istante di sentiero. Now, the change of lineage, moment of consciousness, does take Nibbana as an object. Does. Allora, questo, il cambio di lignaggio prende il Nibbana come oggetto. And the path knowledge also takes Nibbana as an object. E anche la coscienza del sentiero prende il Nibbana come oggetto. And the difference between the two is that the change of lineage, Godrabu, does not eradicate any defilements from the stream of consciousness. That is only the work of the path consciousness. La differenza tra i due è che il cambio di lignaggio, questo Gotrabu, non eradica nessun inquinante dal flusso della coscienza. Questa cosa la può fare solo il sentiero. And that path consciousness will be, in the case of a person, of a meditator of average faculties, will be followed by two moments of fruition consciousness. E questa coscienza del sentiero verrà seguita da un meditante con le potenzialità nella norma, da due istanti di fruizione. Now, in the case of a retreated with keen faculties, the preparatory consciousness, preparation, falls away. And with that, at the end, there will be one more fruition consciousness, so three. Mentre per un meditante dalle facoltà acute l'istante della coscienza di preparazione non avviene, viene saltata, e ci sono tre istanti di fruizione invece che due. Now, because there's only one single path consciousness, as meditators, we need to have a mind that is dull or that is really sharp. Allora, dato che c'è solo un istante di sentiero, il meditante ha bisogno di avere una mente fiacca e ottusa o molto acuta e penetrante? What would you say? It's obvious. Now, and please keep in mind that one moment of consciousness, according to the Buddha, lasts only a tiny, tiny little fraction of time. E tenete presente che quando parliamo di istanti mentali, durano, non so nemmeno quantificarlo, un pochissimo, frazione di istante. So, the Buddha has also stated that within one single snap of fingers or opening and closing of the eyes, blinking of the eyes, billions of moments of consciousness arise and pass. Per dare un esempio, nel tempo in cui uno batte le palpebre o schiocca le dita, avvengono milioni di istanti mentali. And certainly so, this cognitive series will take place in an extremely short period of time. Quindi questa sequenza cognitiva avviene in un tempo veramente brevissimo. And when this is just about to happen, and your mind goes into wandering mind, then... Then what? One dream. Wandering mind. Wandering. Ah, wandering. E se questo accade, sta per accadere e voi iniziate a pensare. Then? Then what? You miss it. There you go. Mancheremo, perderemo l'occasione di avere questa esperienza. Then you are not occupied with something else, and the main thing you miss. Quindi questa sarebbe la cosa principale da sperimentare, ma lo perdiamo. Così. And it may only be much later on, that suddenly the mind recognizes, oh, something has changed here. I don't understand. No, well. È accaduto, okay. Okay. Quindi soltanto molto tempo dopo poi magari ci possiamo accorgere che qualcosa è accaduto. So now there's much to cover, so I'll keep it short. The qualities of a stream enterer. A stream enterer is the person who's realized that, you know, the first level of enlightenment, and with that has experienced this first path consciousness. Allora, le qualità di un entrato nella corrente, e quando si dice entrato nella corrente si sta parlando di una persona che ha raggiunto il primo stadio dell'illuminazione, cioè ha sperimentato questa prima coscienza del sentiero. And so by developing the mind in such a way that eventually path consciousness takes place, or stream entry of a path of stream entry takes place, through this then wrong views and skeptical doubt will be uprooted from the consciousness once and forever. Allora, grazie all'aver sviluppato la pratica fino al punto di sperimentare questa coscienza del sentiero, dell'entrata della corrente, dalla coscienza vengono sradicati per sempre la visione errata e il dubbio scettico. And there are two wrong views. Due visioni errate. And so with this certain experience then, one escapes the bad fortune of being reborn in a state of loss. E grazie a questa esperienza si riesce a fuggire dall'eventualità di poter rinascere in degli stati infelici, bassi. Mm-hmm. And with that, one will be reborn at the most seven more times. E sempre grazie a questo si rinascerà al massimo per altre sette volte. So a stream enterer is one who has entered the stream that leads irreversibly to Nibbana, namely the Noble Eightfold Path. Quindi un entrato nella corrente è entrato nella corrente che porta irreversibilmente al Nibbana, cioè nel nobile o duplice sentiero. And a stream enterer is said to have cut off the coarsest three fetters, namely personality view being one view, doubt being the next fetter, and then adherence to rules and rituals being the second view, wrong view. E quindi si dice che abbia tagliato via queste inquinanti, che è la credenza in una personalità, il dubbio appunto, e poi l'aderire a il credere che i rituali, i riti abbiano una valenza in sé. And such a stream enterer then has unshakable confidence in the Buddha, the Dhamma and the Sangha. E un entrato nella corrente ha una fede che è incrollabile nel Buddha, nel Dhamma e nel Sangha. And in terms of the mental defilements. So it's a different category in terms of that. Well, what does certainly get eliminated are wrong view and doubt, and according to the commentaries also envy and avarice. E riguardo agli inquinanti mentali, vengono, che è un'altra categoria quindi da cui vedere questa cosa, vengono eliminate la visione errata, il dubbio e secondo alcuni commentari anche l'avarizia e l'invidia. And certainly keep in mind that in terms of the fetters that get uprooted and the defilements that get uprooted through this path of stream entry, those are the coarsest fetters, coarsest defilements. Quindi queste catene, questi inquinanti che vengono eliminati dall'entrata nella corrente sono gli inquinanti più grossolani. And what follows from that is, with later attainments, more refined forms of fetters and of mental defilements will be eradicated. E poi con gli ottenimenti più avanzati in seguito vengono eliminate anche gli inquinanti e le catene che sono via via più sottili, più raffinate. And the most subtle fetters and the most subtle mental defilements will be eradicated with the very last path, namely that of arhatship. E i più sottili degli inquinanti vengono eliminati dall'ultimo di questi sentieri, che è quello dell'Arhant. And what also happens with this experience is that the remaining defilements that have not yet been eradicated, they will be weakened. Weakened to such an extent that a person can no longer end up falling into a state of loss. E un'altra cosa che succede dopo questa esperienza è che anche gli inquinanti che non sono stati comunque completamente sradicati comunque diminuiscono, si indeboliscono molto, tanto che non sarà più possibile, a causa di questi inquinanti, cadere in degli stati di perdita, di perdizione. So to be more specific, greed, sensuous greed and anger will remain. However, that greed and anger will not be strong enough anymore to lead a person acting out of that greed and anger to fall into a state of loss. Quindi, per essere più precisi, l'avidità, cioè la brama e l'avversione rimangono nella mente, però sono molto più indebolite, quindi appunto non sarà agendo a causa di queste che poi creeremo come risultato di cadere in stati infelici. And it is further said that a stream entry will be keeping the five precepts in a meticulous manner. E poi viene detto che un entrato nella corrente mantiene i precetti in maniera molto meticolosa. And will abstain from taking life, will abstain from taking what is not given, from sexual misconduct, false speech and the use of intoxicants. Quindi si astiene dal prendere la vita, dal prendere ciò che non gli viene dato, da una condotta sessuale che non sia corretta, appropriata, da una parola falsa o da assumere intossicanti. Now, in the past the yogi did urge to point out that with the realization of the first noble path, many of one's life problems that may still continue. And so sensuous greed and anger will still remain and may still cause us unnecessary suffering. Comunque, anche dopo l'entrata nella corrente, alcune problematiche della vita comunque bisogna dire che rimangono, perché appunto questa avidità, questo desiderio sensoriale e l'avversione sono ancora presenti, quindi continuano a creare della sofferenza non necessaria. So don't assume that the realization of the first noble path will turn you all of a sudden into an arahant. Quindi non credete che anche realizzando il primo nobile sentiero improvvisamente diventerete degli arahant. In terms of the five precepts or one certain ethical conduct, this has been described as follows: one possesses virtues dear to the noble ones, unbroken, untorn, unblemished, unmottled. This much. Quindi verso quando si parla della condotta etica dei precetti si dice che una persona è dotata appunto della condotta dei nobili, che è senza macchia, che non è distorta, che non è untorn, sì, non è distorta, non è unblemished. Unblemish era, non è biasimevole, senza macchia. Freeing, liberating. Liberante. Praised by the wise. Che viene lodato dai saggi. Leading to concentration. E che conduce alla concentrazione. Voilà. Ok. Now, in terms of the fruition, pala in the Pali scriptural language. Quindi riguardo alla fruizione, che nella lingua Pali si dice pala. Now, this denotes those moments of supramundane consciousness which flash forth immediately after the moment of path consciousness. Questi sono dei momenti di coscienza sovramondana che avvengono istantaneamente appena dopo che si è manifestata la coscienza del sentiero. And those fruition moments can, in a meditator who keeps up his or her practice, to flash forth many hundreds and thousands of times till the attainment of the next higher path. E questi momenti di fruizione possono ripresentarsi in un meditante che mantiene la sua pratica fino a che non viene raggiunto poi un sentiero superiore. And so if they keep occurring repeatedly, then they are called attainment of fruition. E quando questo stato, questa cosa avviene ripetutamente, allora si chiama ottenimento della fruizione. And this fruition consciousness, just like the change of lineage consciousness, just like the path consciousness, takes Nibbana as an object. E anche questa coscienza della fruizione, così come la coscienza del cambiamento di lignaggio e del sentiero, anche questa prende come oggetto il Nibbana. Now, the Visuddhimagga, the path of purification, provides us with some deeper understanding of fruition. Il Visuddhimagga, il sentiero della purificazione, ci parla di altre della fruizione più in dettaglio. And it says that no ordinary man or woman attains it. E dice che nessun uomo o donna ordinari possono ottenerla. So as an ordinary worldling, so-called putujana in Pali, one does not certainly yet attain fruition consciousness. Quindi degli esseri ordinari, mondani, in Pali putujana, non possono accedere a questa esperienza della fruizione. And the explanation given is because it is beyond their reach. La spiegazione data è perché è oltre alla loro portata. But on the other hand, all noble ones do attain it. E d'altro canto, invece, i nobili possono ottenerla. And why is that? Because it is within their reach. Perché è alla loro portata. But those who have reached a higher path do not attain a lower fruition because the state of each successive person is more tranquilized than the one below. So, but those who have reached a higher path do not attain a lower fruition. Quindi quando coloro che hanno raggiunto un sentiero superiore non possono più raggiungere la fruizione del sentiero precedente, inferiore, perché le formazioni si sono più tranquillizzate, più calme. And those who have only reached a lower path, so let's say the path of stream entry, do not attain a higher fruition, let's say like that of the third path, because it is beyond their reach. E le persone che hanno tenuto un sentiero come l'entrata nella corrente non possono raggiungere la fruizione di un sentiero superiore come il terzo sentiero perché questa è oltre alla loro portata. But each one attains his or her appropriate fruition. This is what has been agreed here. E quindi ognuno ottiene, riesce a raggiungere la propria fruizione. No. The Visuddhimagga asks the question, why do meditators attain fruition? What's the reason behind it? What's the purpose behind it? E poi Visuddhimagga fa questa domanda, ma perché i meditanti ottengono la fruizione? Qual è lo scopo dietro a questo, a far questo? And so having worked hard in one's meditation practice over days, weeks, if not months, and then finally with the fruition gratification comes. E perché dopo aver praticato così duramente per settimane, mesi, anni, poi finalmente con la fruizione c'è della gratificazione. So the Visuddhimagga says for the purpose of abiding in bliss here and now. Quindi lo scopo è quello del dimorare nella beatitudine qui e ora. And just as a king experiences royal bliss and a celestial being, a deva, experiences divine bliss, so too the noble ones think we shall experience the noble supramundane bliss. Quindi proprio come un re sperimenta la beatitudine, una beatitudine reale, e un deva sperimenta una beatitudine celeste, così un nobile può avere l'intenzione, adesso sperimenterò questa beatitudine supramondana. And after deciding on a duration, they attain the attainment of fruition whenever they choose. E dopo aver definito, scelto una durata per questa fruizione, loro possono raggiungere la fruizione quando desiderano. And certainly so, that certain fruition experience can be developed. One can practice or developed in such a way that fruition may occur many times, multiple times. Quindi l'esperienza della fruizione può essere sviluppata con la pratica così che possa avvenire molte volte. And one can also train one's own mind so that the fruition lasts for longer and longer periods of time, so in a continuous manner. E ci si può anche addestrare, si può addestrare la mente a far sì che la fruizione duri per dei periodi di tempo sempre più lunghi. And so, just like we need to develop the mind so that the various insight knowledges arise in the proper manner. So too, the mind needs to be developed in terms of the fruition experiences, or can be developed. Quindi, così come si può addestrare la mente per far sì che si sviluppi la pratica degli insight in modo appropriato, così anche c'è una pratica di addestramento che riguarda alla fruizione che può essere fatta. And to make it very clear, with the experience of a fruition consciousness, none of the fetters or mental defilements will be abandoned. That only happens with path consciousness. Però per mettere le cose in chiaro, con l'esperienza della fruizione non viene abbandonato nessun inquinante. Questa è una funzione che può essere svolta soltanto dal sentiero. No. The Visuddhimagga asks what are the benefits of developing understanding, and it says as number one, removal of the respective defilements. Quando nel Visuddhimagga c'è la domanda qual è il beneficio dello sviluppare la comprensione, una risposta è l'abbandono degli inquinanti. Mm-hmm. And another major benefit is that taste of the noble fruit. E un altro dei benefici è l'assaggiare e gustare questo nobile frutto. And so when these fruition experiences certainly keep occurring, then one's understanding of them will gradually increase. E quando quindi la fruizione avviene varie volte, la comprensione di una persona aumenta. And one's faith in these experiences will also increase. One's faith. Confidence. E la fiducia di una persona riguardo a questa esperienza anche cresce. So the faith that they are truly happening and are not just an imagination of the mind. Nel senso, una fiducia che è una cosa che sta avvenendo realmente e non è qualcosa che è stato immaginato dalla mente. What else happens is that through developing these fruition experiences, the mind gets, the strength of the mind grows tremendously. E un'altra cosa è che raggiungendo ripetutamente questa esperienza della fruizione, la forza della mente aumenta in modo molto esponenziale. And the mind also becomes more malleable. E la mente diventa sempre più malleabile. And that is certainly a quality that the Buddha described in the case of his mind. Ed è che era proprio una delle qualità che il Buddha ha descritto facente parte della sua stessa mente. Now, when a meditator has developed this certain capacity to go into fruition, then this is basically working as an escape from unwholesomeness. Quindi il meditante, quando si addestra nel raggiungimento della fruizione, è un po' una fuga da ciò che non è salutare, dal non salutare. And training the mind in these fruition experiences is also a way to discern between faked experiences and genuine experiences. E è anche un modo per riuscire a discernere tra le esperienze autentiche, reali, e quelle invece false, non reali. Yeah, right. And so there are certain experiences that look like fruition experience, but they are not. Perché ci sono delle esperienze che assomigliano all'esperienza della fruizione, ma non lo sono. So one obvious example for this is if one sits there and falls asleep and then afterwards concludes, oh, this must have been something special. Un esempio comune è che una persona è lì seduta, poi si addormenta e quando si risveglia dice, ah, magari è successo qualcosa di speciale. And And typically when a retreating comes out of fitness, such a version experience, then the mind will be filled with wholesome mental states. Ma generalmente quando si viene fuori da un'esperienza di questo genere, la mente è ricolma di stati benefici. The Buddha has certain state, and so the safe and good path that leads to happiness has been reopened by me. Il Buddha affermava che questo sentiero che conduce a ciò che è bene, che è? Alla felicità, è stato riaperto da me. Yeah, right, right. And another statement by the Buddha is, I do not say that the breakthrough to the Four Noble Truths is accompanied by suffering or displeasure. E poi Buddha diceva, io non dico che questo accesso alle quattro nobili verità sia un'esperienza accompagnata dalla sofferenza o dall'angoscia, dalla pena. Rather, the breakthrough to the Four Noble Truths is accompanied only by happiness and joy. Ma questa esperienza è accompagnata da gioia e da felicità. Now, the Visuddhimagga contains a longer verse that describes fruition, an ode to fruition experiences, if you like to. Il Visuddhimagga contiene un lungo paragrafo, verso, che parla appunto della questa esperienza dell'ottenere la fruizione. So, the first line says, asceticism's fruit sublime. Il sublime frutto dell'ascetismo. Yeah, that's it. Which tranquillizes all distress. Che tranquillizza tutta la sofferenza. Its beauty from the deathless draws. Its beauty. È bella. Ok, estrae la sua bellezza da ciò che non, dal senza morte. It's calm from lack of worldliness. È calmo perché è privo di ciò che è mondano. Of a sweet purifying bliss. Un godimento, un rapimento, una beatitudine pura e purifying bliss. È purificata, una beatitudine purificata e dolce. And whose honey sweet ambrosia a deathless sustenance provides. Honey sweet. Come del dolce miele, l'ambrosia del dolce miele, così. A deathless sustenance provides. Così fornisce una come sostanza? Nourishment. Un nutrimento senza morte. Sorry. No, if a wise man or woman cultivates his or her understanding. Se un uomo o una donna saggia coltivano la propria comprensione, one shall know, sapranno, conosceranno, this peerless bliss, questa beatitudine senza pari, which is the taste, che è il sapore, the noble fruit provides, che il nobile frutto ci fornisce. And so this is the reason why they call. This is the reason why they call. E questa è la ragione per cui essi chiamano. Experience here and now aright. Questa esperienza qui e ora. Of flavor of the noble fruit. Del sapore del nobile frutto. A blessing of fulfilled insight. La beatitudine di un insight portato al compimento. Okay. Now, we shall take a quick look at Nibbana itself. So, different explanations of Nibbana have been given. Allora, diamo un'occhiata adesso al Nibbana stesso. Sono state date delle diverse definizioni. Now, the Abhidhamma says that the characteristic of Nibbana is peace. Allora, l'Abhidhamma dice che la caratteristica del Nibbana è la pace. And its function is deathlessness. E l'essere senza morte, la sua funzione. Uh-huh. And its manifestation is signlessness. La sua manifestazione è l'essere privo di segni. And then it has been explained as just alone. As the stilling of all cognitions. E poi viene definito come il calmarsi di tutte le condizioni, cognizioni. And the commentary to the Samyutta Nikaya is saying it is Nibbana that is called the cessation of the six sense bases. E viene anche definito come la cessazione delle sei basi sensoriali. For in Nibbana, the eye, the ear, etc. cease, and perceptions of form, sounds, etc. fade away. Perché nel Nibbana l'occhio, l'orecchio, eccetera, e la percezione degli oggetti visivi, delle forme, dei suoni, eccetera, non ci sono, svaniscono. And in the Melinda Panna, so the conversations between King Melinda and Elder Nagasena, the topic of Nibbana comes up, and various descriptions of it Elder Nagasena gives or provides to the king. E nel Melinda Panna, che è questo testo in cui il re Melinda parla con il saggio Nagasena, viene fuori l'argomento del Nibbana e vengono date delle descrizioni. And so Elder Nagasena says that Nibbana is as a lotus, it is unwetted by water. Quindi Nagasena dice il Nibbana è come un fiore di loto che non è bagnato dall'acqua. And Nibbana is unsullied, so not dirtied by the defilements. Il Nibbana non è sporcato, non è toccato dagli inquinanti. And like water, it cools the fever of defilements. E come l'acqua raffredda il fuoco degli inquinanti. And it quenches the thirst of craving. E può spegnere la sete della brama, placare la sete della brama. And it protects beings who are poisoned by the defilements and cures the disease of suffering. Protegge gli esseri che sono malati con gli inquinanti e il fuoco. Cures the disease of suffering. E cura la malattia della sofferenza. No, Nibbana is empty of all defilements. Il Nibbana è privo degli inquinanti. And then let me see what else. And then Nibbana cannot be defined in terms of space or in terms of time, location, shape or form or anything like that. Il Nibbana non può essere definito in termini di spazio, di tempo, di luogo o con nessun'altra cosa del genere, forma. And so it is something that does exist, but it is not known to those who have not experienced it. It is known only to those who have access to it. Quindi è qualcosa che esiste, ma è conosciuto solo dalle persone che lo hanno sperimentato, mentre chi non lo ha sperimentato non può conoscerlo. And some of the main benefits of gaining the path of stream entry have been summarized in the Visuddhimagga. E i benefici maggiori dell'entrata nella corrente sono stati riassunti nel Visuddhimagga. And there we find that not only does it cause the piercing of this mass of greed, but it also dries up the ocean of suffering of the round in the beginningless round of rebirths, so samsara. E quindi riesce ad asciugare questo enorme potenziale di sofferenza che c'è nel ciclo senza fine del samsara e l'oceano del samsara. Yeah, ecco. It closes all doors to the states of loss. Chiude tutte le porte degli stati infelici. It provides actual experience of the seven noble treasures. E fornisce un'esperienza dei sette tesori nobili. And those seven Aryan treasures are faith, che sono la fede, morality, la moralità, moral shame, la vergogna morale, moral dread, la paura morale, il timore morale, generosity, la generosità, learning, e il sapere, l'imparare, renunciation, la rinuncia, and wisdom, e la saggezza. And furthermore, it abandons the eightfold wrong path. E inoltre abbandona l'ottuplice sentiero errato. And it allays all enmity and fear. E lei placa, riesce a placare la paura e enmity and e all l'inimicizia. Yeah. So all enmity that might arise through or by transgressing, by taking life, by taking what is not given, etc. Un'inimicizia che può esprimersi nel prendere la vita di un altro essere o prendere qualcosa che non ci viene dato e così via. And it leads a person to become a son or daughter of the Buddha. E inoltre con questa esperienza una persona diventa un vero figlio o figlia del Buddha. And certainly the text says there's so many hundred of other blessings that come along with this experience. E poi i testi dicono ci sono centinaia di altri benefici che derivano da questa esperienza. Now, allow me to conclude today's Satna discourse by wishing may all of us develop not only mundane forms of Satna wisdom, but those mundane forms of wisdom lead on to the realization of supramundane forms of Satna wisdom, and Satna with that then. May your load of suffering decrease. Allora, per concludere, vi auguro di sviluppare non soltanto le forme mondane di saggezza, ma che poi queste forme mondane di saggezza vi conducano a sviluppare le forme sopramondane di saggezza e che questo possa alleggerire il vostro carico di sofferenza. And that's all. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.